Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Di: la verità proviene dal vostro Signore, creda chi vuole e chi vuole neghi. In verità, abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le cui fiamme li circonderanno, e quando imploreranno da bere, saranno abbeverati da un'acqua simile a metallo fuso, che ustionerà i loro volti. Che terribile bevanda, che atroce dimora. Inna alladhina amanu wa amilu الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Quanto a coloro che credono e compiono il bene, non lasceremo andar perduta la ricompensa di chi avrà agito per il bene. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ecco coloro che avranno i giardini dell'Eden dove scorrono i ruscelli. Saranno ornati di bracciali d'oro e vestiranno verdi abiti di seta finissima e di broccato, e staranno appoggiati su alti divani. Che eccellente ricompensa, che splendida dimora. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Proponi loro la metafora dei due uomini. Ad uno di loro demmo due giardini di vigna circondati da palme da datteri, separati da un campo coltivato. Kilta al-jannatayn atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Davano il loro frutto i due giardini, senza mancare in nulla, e in mezzo a loro facemmo sgorgare un ruscello. Alla raccolta disse al suo compagno: ti sono superiore per beni e più potente per clan. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ